diamo la parola alla dottoressa Quadrino. Abbiamo già detto prima da dove arriva, qualcosa magari ce lo dirà anche lei, qualcosa avete visto, lo abbiamo distribuito sul tavolo della segreteria quando siete arrivati. Bene, allora buongiorno, buona giornata a tutti. Io cerco di, non mi presento personalmente, sono Silvana Quadrino, di mestiere faccio la psicologa e prevalentemente la formatrice in ambito sanitario, lavoro per formare medici e professionisti sanitari a una migliore comunicazione con i pazienti. Da qui viene il mio interesse per il mondo sanitario. Vi dico due cose su che cosa è slow medicine. Alcuni di voi alcuni di voi c'erano all'incontro di settembre in cui, parlando di felicità, abbiamo parlato di slow medicine. Che cosa c'entra? Allora, slow medicine nasce, è nata 5 anni fa. Siamo fratelli quasi siamesi di Slow Food, nel senso che abbiamo degli aspetti comuni. Slow Medicine nasce come Slow Food, è nata rivolgendosi ai produttori e ai consumatori. Slow Medicine nasce rivolgendosi ai professionisti sanitari e ai cittadini. E l'obiettivo è di cambiare qualcosa, esattamente come voleva Slow Food. Qualcosa di molto profondo, di molto invasivo e molto pericoloso, una cultura della salute troppo centrata sul consumo. Io dico sempre, da cittadino, non faccio il medico, quindi vedo più il versante del cittadino, io dico sempre che il troppo consumo che c'è, sia di farmaci che di esami, nasce dalla paura e dalla scarsa informazione. Le persone hanno paura per la propria salute, giustamente, l'unica cosa che abbiamo e che potremmo conservare meglio, che vogliamo conservare meglio, dipende da noi conservare meglio, e per conservarla meglio dipendiamo dalle informazioni che ci arrivano. E purtroppo le informazioni che ci arrivano non sempre sono quelle più corrette. Non sempre sono quelle più pulite, parliamo anche di pulizia nel senso di etica, non viziate da interessi. E l'obiettivo di Slow Medicine è quello di diffondere fra i cittadini e anche fra i professionisti una conoscenza migliore, non influenzata da interessi economici o interessi di altro tipo. A partire da questo, a Torino in particolare, abbiamo costruito un progetto che si chiama Scegliamo con Cura, che coinvolge i medici di medicina generale, adesso comincia a coinvolgere alcuni specialisti, i nutrizionisti e gli allergologi, e i cittadini. L'obiettivo è questo. La salute è qualcosa che si condivide a un certo punto fra il cittadino e il medico. Col medico si parla, insieme al medico si dovrebbe scegliere. Allora, noi vogliamo che ogni cittadino sappia, sia aiutato a scegliere con cura, a volte anche a scegliere con cura il suo medico, perché vedremo che dovremmo ritrovare il coraggio di chiedere ascolto. Per questo il mio libro si chiama Ascolti dottore. Dobbiamo trovare il coraggio di chiedere ascolto, se non lo otteniamo ci si può interrogare. E allora vi dico il senso del questionario che avete trovato. Stiamo cercando di vedere come, da che punto partiamo, cioè quali sono gli atteggiamenti di partenza che un cittadino ha. Voi non siete proprio cittadini medi, siete un po' particolari, però vi stiamo usando come test per questo questionario. Vi chiederei di darmi un'idea di come avete risposto. Allora, la prima domanda che vi ho fatto è, e qualcuno ha detto, che domanda astrusa, la medicina è una scienza esatta, cioè il medico ha degli strumenti per poter trovare esattamente, con un meccanismo, senza il vostro aiuto voglio dire, ha degli strumenti per capire che cosa è adatto a voi, qual è la cura più giusta. Ci sono dei... E come avete, chi è che ha risposto sì, è una scienza esatta, o almeno sarebbe meglio che lo fosse? Alzate la mano solo così per capire. Ok, pochissimi. Tutti gli altri hanno risposto no, non è una scienza esatta. Ok, questo è già un segnale importante, perché in genere l'80% delle persone che noi intervistiamo ci dice che la medicina è una scienza esatta. Cioè, se il medico mi dà un farmaco che non funziona, ha sbagliato, perché doveva sapere qual era il farmaco giusto. Capite come l'atteggiamento mentale condiziona la comunicazione? E non è così. Noi stiamo cercando in tutti i modi di creare una comunicazione più condivisa tra medico e paziente, perché in effetti poi se la stessa domanda la facciamo ai medici, sono pochissimi quelli che dicono una scienza esatta, probabilmente sono i meno colti, perché il medico lo sa che non esiste a questo sintomo corrisponde questa malattia e sicuramente questa cura. E neanche, io oggi non voglio parlare di esami perché il discorso è più complicato, lo facciamo un'altra volta, è molto più delicato, però non esiste neanche a questo sintomo corrisponde questo esame che sicuramente mi dirà che cos'ha quella persona e sicuramente mi dirà come si cura. Vi dico, è più difficile accettarla questa cosa qua, però non è una scienza esatta e comunque l'avete intuito bene. Altra domanda che qualcuno mi ha detto è astrusa, però vi spiego che senso aveva. No, questa non me la ricordo. Sì, no, ma lo vedo da lì. Allora, un farmaco più nuovo, più recente, è migliore di un farmaco che ce li da anni? Qualcuno mi ha detto, boh, io che ne so. Spesso succede, succede che le persone ricevono informazioni dal farmacista o dal medico. Guarda, è uscito questo farmaco nuovo e magari proviamo a usare quello. Allora la domanda era, è meglio, proprio per, a sensazione vostra, un farmaco appena uscito è più efficace di un vecchio farmaco? Chi è che ha risposto sì? Ok, provate, avete voglia di dire che cosa vi fa dire sì, è meglio un farmaco più nuovo? Tu ce la fai a dirmi perché hai detto sì? Perché così come in tutti i settori la nuova tecnologia o le innovazioni portano generalmente un progresso, un miglioramento, anche in questo settore dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Tutti gli altri hanno risposto. Se fosse un cellulare. Ok, guardate che la maggioranza dei cittadini, qui siete un po' speciali, siete più critici, eccetera. Ma la maggioranza delle persone è convinta che se c'è una cosa nuova in farmacologia, come nei cellulari, è più efficace. Allora succede questa cosa, che le ricerche che sono state fatte da tutti gli uffici dei farmaci in tutto il mondo ci rivelano questa cosa inquietante, che entrano sul mercato farmaci nuovi, con nuovi nomi, che di nuovo hanno solo il prezzo più alto. Tutto il resto è esattamente come prima. E anche di quelli innovativi, cioè che hanno qualche cosa di diverso da quelli precedenti, quelli che realmente fanno meglio sono pochissimi. E questo ci deve far riflettere non sul fatto che ci vogliono fregare, perché non è tanto questo, sul fatto che dobbiamo stare attenti, cioè dobbiamo essere più attenti a informarci con cura. E l'interlocutore è il medico, se ci fidiamo del medico, ma se non ci fidiamo del medico diventa un po' complicata la faccenda. Altra domanda che vi ho fatto, anche questa, riflettiamoci, se esiste un farmaco, lo vendono, fa bene per l'ipertensione, siamo sicuri che fa bene a tutti? Per l'ipertensione? Avete risposto quasi tutti no. Okay. Bene, allora questo è un altro fatto. Esistono farmaci che vengono anche prescritti e anche esami, ma non voglio parlare di esami oggi, che non sono appropriati. Ed ecco che incontriamo una parola su cui poi spendiamo un attimo di riflessione. Cosa vuol dire? Che, ahimè, fra il 20 e il 40% delle prescrizioni, sia di farmaci che di esami, sono, e questo a livello mondiale, non è che noi siamo più bravi o più cattivi di altri, la media è questa: fra il 20 e il 40% delle prescrizioni sono inappropriate. Cosa indica questo aggettivo nella realtà? Non nella testa del ministro, nella testa degli scienziati. Inappropriato significa che non ha sicura efficacia per tutti e che può avere degli effetti negativi. Allora, dal 20 al 40% non è poco, non è poco. E noi ci dobbiamo chiedere, ma da dove arrivano allora queste prescrizioni qua? Perché succedono? Che cos'è che le fa succedere? Il punto è proprio questo qua, che dovremmo ricordarci che l'incontro tra un cittadino paziente, ma non mica tutti siamo pazienti, a volte siamo anche sani per fortuna, e un medico deve essere condotto, questo è l'obiettivo di Slow Medicine, li scegliamo con cura, deve essere condotto con una maggiore competenza e una maggiore corresponsabilità da parte del cittadino. Siamo tenuti a informarci. Io qui vorrei fare una cosa diversa rispetto a quello che correttamente hai fatto tu. E mettiamo un attimo in secondo piano il risparmio economico. Lo togliamo, esiste anche, però togliamolo un attimo dal tavolo e chiediamoci che cosa significa inappropriato sulla pelle del cittadino, e lasciamo perdere le sue tasche che ci sono anche. Cosa significa inappropriato sulla pelle del cittadino, del paziente? Significa che un farmaco che non è proprio quello adatto a lui e può essere del tutto inutile e quindi non portargli nessun beneficio, e può avere qualche effetto non positivo. Succede che un farmaco non proprio necessario, non appropriato, si somma ad altri farmaci, e voi lo sapete che la popolazione della mia fascia di età, io ho 72 anni, quindi dai 65 anni in su c'è una media di consumo di farmaci spaventosa, cioè ci sono persone che assumono fino a 12-18 farmaci al giorno. Allora, non è pensabile, poi sentiremo Guido che ci dice la voce non solo dell'ordine dei medici, ma del medico di medicina generale bravo, cioè quello che davvero è attento ai pazienti. Non esiste che una persona abbia bisogno di 18 farmaci, neanche di 12. Comunque andrebbe rivista questa cosa qua. Allora, il problema è che il farmaco è qualcosa che andrebbe in qualche modo contrattato, condiviso col medico e con la collaborazione di entrambi. Per questo il nostro progetto si chiama Scegliamo con cura, dove la parola cura ha il doppio significato: curiamo, ma scegliamo con cura, con accuratezza, con attenzione. E quando parliamo di appropriatezza, perciò, non parliamo solo di risparmio, perché se per il cittadino, se pensiamo solo al farmaco come costo e alla riduzione dei farmaci come risparmio, la sensazione è quella che ci vogliono sottrarre, che ci sia un tentativo di ridurre il nostro diritto alla salute. Non è così, cioè noi stiamo rivendicando la salute, ma una salute, come è stato detto, più basata sugli stili di vita, più basata su cose che possono anche sostituire il farmaco. Lo sapete, credo che lo sappiate, se non lo sapete lo diciamo, poi Guido mi conferma, perché io non vorrei mai dire delle cose da medico che non so, ma il diabete è molto più controllato con lo stile di vita. Ci sono diabetici che possono sospendere l'insulina o comunque ridurla moltissimo con una, uno stile di vita, soprattutto movimento e alimentazione adeguato. L'assunzione di statine può essere ridotta o abolita con lo stile di vita. Allora, questo è l'aspetto che noi vogliamo sostenere. Cioè, per noi l'appropriatezza è legata alla personalizzazione della cura. La cura è per quella persona lì che ha quei sintomi lì e quel modo di vita lì. Anche lo stile di vita non può essere prescritto a una persona uguale a tutti gli altri, perché c'è chi può e chi non può fare del movimento, ma va contrattata. Questo è un po' l'obiettivo dei nostri, di tutto il discorso di Slow Medicine, di Scegliamo con Cura. E Slow Medicine ha fatto una, ha elevato un'accorata protesta quando è comparso il decreto appropriatezza, perché quello che veniva, ecco, quello che veniva detto, può anche essere condivisibile che parliamo di appropriatezza, ma non di quella lì, non di quella appropriatezza lì imposta con dei numeri decisi all'interno e soprattutto con delle punizioni per il medico cattivello che prescrive troppo. La appropriatezza si basa su scelte di cui il medico deve essere consapevole, ma, e questo lo ripeto perché voi siete il pubblico giusto, questo è un discorso da far circolare, il paziente, il cittadino di oggi, 2016, è tenuto a essere attivo nelle scelte, è tenuto a essere informato, è tenuto a collaborare nella decisione. Quindi per noi l'appropriatezza non è impostata con modalità amministrative, questo è il livello dell'appropriatezza e qui vi dovete attestare. E parte dalla responsabilità dei professionisti. Io quello che ho detto quando è partito il dibattito, non si crea responsabilità con la punizione o con i divieti. A me l'esempio che mi viene sempre è quello del proibizionismo. E vi sembra che il proibizionismo abbia ridotto il consumo di alcol, visto che quello era l'obiettivo? Ha ottenuto l'effetto opposto, che si è diffuso, e si è diffuso in modo pericoloso. Allora, non è coi divieti che raggiungeremo l'appropriatezza e lo ripeto ancora una volta, con la consapevolezza condivisa da professionisti e da cittadini. E su cosa si basa, ho quasi finito, Scegliamo con Cura. E su questa convinzione che vogliamo condividere con i cittadini e che i medici continueranno a portare ai cittadini, i farmaci possono anche avere effetti non positivi, gli esami possono anche essere rischiosi, poi non parlo più di esami, i raggi X sono tendenzialmente una cosa brutta, gli stili di vita vanno aumentati. E allora cosa deve fare il paziente? Questo è il punto chiave, quello a cui tengo io, Il paziente può, secondo me deve, imparare a essere più attivo. Anche nel chiedere, nel fare domande, si possono fare domande ai medici. Allora, sui farmaci ci sono alcune domande che il cittadino deve abituarsi a porre. Ci vuole un pochino di coraggio, ma magari si può anche fare. Allora, per esempio, dire sempre al medico quali altri farmaci stiamo prendendo. Non sempre il medico ha voglia di si ricorda di chiederli. Non sempre il paziente lo dice, così arriviamo a 18 farmaci al giorno. Questo me l'ha dato in ospedale, continuo a prenderlo, non mi viene neanche a dirlo al medico. Chiedetelo, questo farmaco può dare effetti collaterali? Magari il medico ve lo dice, magari ve lo ha detto e non lo avete capito. Guardate che se fate domande voi, il dialogo diventa molto più attivo. Ci sono altre cose che posso fare invece di prendere questo farmaco? Magari se lo chiedete il medico ve lo dice. Beh, guardi, se lei davvero ha voglia di fare il movimento tutti i giorni, eccetera, possiamo anche provare a non prendere le statine. Se non glielo chiedete, magari ha fretta, magari non gli viene in mente, non ve lo dice. Okay? Quindi questo significa anche rischiare questo. Cioè che il medico vi guarda e vi dice, allora, qui il medico sono io e lei non mi rompa le scatole, va, sono una signora, Allora, questo qui davvero è il coraggio di chiedere di essere ascoltati, perché a volte se lo chiediamo con coraggio e non con aggressività, non in tono polemico, le risposte arrivano più spesso di quello che chiedete, che credete. Bisogna saperlo fare in modo appunto non polemico, non aggressivo, si può fare, Allora questo è il senso del mio libro. Si può, come i medici, alcuni medici, parecchi medici, stanno imparando a comunicare meglio, così anche il paziente può imparare a comunicare meglio. Si crea un incrocio, diciamo, virtuoso. Queste sono le parole chiave di Slow Medicine, e quindi l'obiettivo è la sobrietà, certo, ma anche il rispetto reciproco, e anche quello che è stato detto, le cure appropriate sono più giuste se riusciamo a distribuire meglio le risorse. Ma partiamo comunque soprattutto dal benessere del cittadino. Questa è la campagna, Scegliamo con cura, la troverete in giro per la città, è replicabile in tutte le sedi che vi possono venire in mente. Quindi se qualcuno di voi vuole portare questa campagna anche in altri centri piemontesi, noi ci siamo. Però mi fermo. Bravissima, grazie.